scoperto l'olio di far festa. Sono un po' altro con la bellezza in testa. Avevo un bicio cielo, piange di addosso. Pensavo all'amore che è solo nostro. Ed una mosca che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. Andate senza ritorno, per seguire appena il capo al mondo. Attimo, secondo, volare a te vai da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Sagato lo lavoro mero per un po', sapito cosa meno trasferiamoci a Bangkok. Dove la metropoli incontra trovci, tra le lute divertiamo quasi mille copci. A base stile sul volo vento in faccia, basta il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita di sconvolte senza sapere quando. Andate senza ritorno, per seguire fine il capo al mondo. All'ultimo secondo, volerei a dettagli da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Anche i muri di questa città mi parlano di te. Le parole ne stanno metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giro questa volta ti vengo a prendere senza sapere quando. Volare a te dai da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, senza sapere quando. Andate senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo, volare a te dai da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, senza sapere quando. Andate senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo, volare a te dai da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, senza sapere quando. Volare a te dai da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.